F. Ascolta e indica la parola che senti. 1. È un ragazzo gentile. 2. Domenico è di Zurigo. 3. Hai una penna? 4. È un maestro di canto. 5. Mi piace la pasta. 6. Ho bisogno di una sosta.